Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. A conti fatti, la storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole. Alla metà del 2020 il PIL del nostro paese è tornato ai livelli osservati all'inizio del 1993 e in termini pro capite è addirittura sceso ai valori registrati alla fine degli anni 80. Dati preoccupanti, quelli resi noti lo scorso 4 settembre dal governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, nel corso del suo intervento all'Euro Science Open Forum di Trieste. Dati che fotografano con assoluta evidenza la portata della crisi innescata dalla pandemia, con il PIL che quest'anno subirà una contrazione di almeno il 9-10%. Per tornare quantomeno ai livelli, peraltro tutt'altro che soddisfacenti, di crescita del periodo pre-Covid, occorrerà attendere il prossimo anno, forse il 2022. Fin d'ora si devono però, anche grazie agli stanziamenti messi in campo da Bruxelles, porre le basi per assicurare un ritorno a tassi di crescita degni di questo nome, che nella storia italiana del secondo dopoguerra sono stati conseguiti in diverse occasioni, anche se non mai ai livelli record registrati tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60. Di questi temi discutiamo questa sera, cari ascoltatori, con Pietro Reichlin, docente di economia alla LUISS. Buonasera professore, benvenuto. Buonasera a voi. Dagli anni del boom economico, quando l'economia cresceva a ritmi annui del 6, 7 e 8%, a oggi il nostro paese ha vissuto stagioni di grave recessione economica, ma non dell'intensità di quella in atto, la peggiore dal secondo dopoguerra. Nel 1975 il PIL subì una contrazione del 3,5%, in linea con la recessione che si registrò a livello internazionale. Un anno prima, nel 1974, l'inflazione aveva raggiunto nel nostro paese il picco del 20% su base annua. Per la prima volta vi fu una simultanea caduta degli investimenti e del livello assoluto del reddito nazionale. Poi, nel 1992, l'anno della gravissima crisi finanziaria che culminò nella svalutazione della lira e nell'uscita della lira dal sistema di cambio europeo, il PIL, dal 1992 al 93, subì una drastica contrazione con una perdita accumulata del prodotto dell'1,9%, con la spesa in beni durevoli che crollò del 23,5% e tempi di recupero rispetto ai livelli precedenti di 4-5 anni e con l'occupazione che registrò una contrazione del 5% tra il 92 e il 95. Poi, per effetto della crisi finanziaria del 2008, nel 2009 il PIL crollò del 4,9%, con una perdita accumulata nell'intero periodo di circa 9 punti di prodotto. Dal 2007 al 2016 il PIL pro capite cala del 10%, i consumi finali del 7%, la produttività del lavoro dell'1%. Il valore aggiunto nell'industria manifatturiera cala del 20%. La disoccupazione passa dal 6,1 all'11,7%, la disoccupazione giovanile aumenta dal 20,4 al 37,8%. Allora, professor Reichlin, questi dati mostrano con assoluta evidenza che il problema della crescita in Italia non è un problema, sì, è vero, del Covid, quest'anno è un anno eccezionale, però noi abbiamo un problema strutturale da questo punto di vista. Sì, senz'altro. Noi in generale cerchiamo di distinguere tra le cadute del PIL o diciamo l'andamento del PIL in generale, che è dovuto a delle crisi, quindi dai fenomeni diciamo episodici, come è stata quella del 2009-2013, come quella adesso del Covid, o del 93 come ricordavate voi, e l'andamento del PIL tendenziale, cioè quello che si vede nell'arco diciamo di un arco di tempo piuttosto ampio. Quello che noi osserviamo è che dalla metà degli anni 90 l'Italia cresce poco, cresce meno degli altri paesi sviluppati e degli altri paesi occidentali. E in più l'Italia ha subito la crisi più degli altri paesi europei, cioè l'Italia mostra una certa fragilità di fronte a fenomeni eccezionali come sono stati quelli della crisi del debito sovrano, della crisi finanziaria e come adesso la crisi del Covid. Diciamo che sono due fenomeni che non dobbiamo difficilmente possiamo comparare, nel senso che una cosa è quanto cresce un paese tendenzialmente, quindi come va la produttività, come va l'occupazione, e questi sono fenomeni in generale che noi chiamiamo di lungo periodo. Un'altra cosa appunto è capire perché l'Italia di fronte a questi fenomeni globali finanziari subisce queste cadute così ampie. Qui ci sono degli elementi che hanno a che fare non tanto con questioni diciamo di produttività, anche quelli naturalmente, ma anche diciamo con questioni diciamo di fragilità della finanza pubblica, di un debito pubblico elevato e cose di questo genere. Ecco, da questo punto di vista glielo chiedo anche perché c'è un dibattito molto acceso in corso a proposito dell'utilizzo dei 209 miliardi del Recovery Fund e degli altri aiuti europei, ma ecco, che peso hanno gli investimenti in questa partita? Cioè, possiamo pensare che spingere molto la leva degli investimenti possa mettere in moto il circuito dell'economia, oppure è complicato metterla in moto? Allora, io penso questo. Certamente l'Italia ha investito poco in questi anni. Sì. È particolarmente scesa la quota, diciamo, degli investimenti da parte del settore pubblico sul totale della spesa, ma anche gli investimenti privati sono caduti. E questo però diciamo è, come dire, una conseguenza della crisi che c'è stata nel 2013. Quando c'è una crisi, naturalmente gli investimenti sono una delle principali voci diciamo che subisce una modifica, una caduta. Però non bisogna pensare che gli investimenti di per sé, qualunque essi siano, siano diciamo un fattore che consente all'Italia di crescere di più. C'è un problema diciamo di efficienza generale del settore produttivo, una scarsezza per esempio del quello che si chiama il capitale umano, cioè del complesso diciamo di competenze dei lavoratori, il livello di istruzione, l'efficienza della pubblica amministrazione e della giustizia, cioè tutti i fattori che possono migliorare, sì, in parte grazie ad investimenti, ma soprattutto anche a riforme che non necessariamente richiedono delle spese per investimento. A proposito di riforme, appunto, considerato che il governo sta per presentare, lo dovrebbe fare comunque entro l'anno, il suo piano per le riforme a Bruxelles per ottenere i fondi, quali dovrebbero essere a suo avviso le priorità sulle quali concentrare l'azione pubblica, ma anche il sostegno dei privati? Beh, diciamo che l'Europa già ci ha indicato diciamo le strade da seguire, perché i problemi dell'Italia sono noti a tutti, non è che sono delle novità. Appunto, l'Europa stessa parla di efficientamento della pubblica amministrazione, digitalizzazione, giustizia civile, certo. Giustizia civile, e poi naturalmente tutto a seguire, cioè riforme anche che hanno a che fare diciamo con l'efficienza del mercato del lavoro, la capacità dei giovani di trovare un lavoro e anche miglioramento dell'istruzione. E poi naturalmente c'è tutto il capitolo del Green Deal, diciamo dell'aspetto ambientale. Quindi è chiaro che noi dovremmo investire su questi settori. Il pericolo è che si facciano troppe cose, diciamo così, più visibili, non so, per dire autostrade, ponti, infrastrutture, edilizie o cose di questo genere, e non si utilizzano questi risorse anche per fare appunto quelle cose che l'Europa indica e che noi sappiamo sono diciamo richiedono uno sforzo di fantasia più importante, perché naturalmente rendere più efficiente il sistema educativo o il sistema giudiziario eccetera, insomma, è naturalmente è una questione che non ha a che fare appunto soltanto con spese visibili, ma anche deve essere accompagnato da cambiamenti proprio istituzionali. Sì, poi c'è il tema, l'ultima questione che voglio porre, professor Reichlin, il tema ricorrente della riforma fiscale. Anche in questo caso il governo ha annunciato che dal prossimo anno ci sarà una riforma incisiva, però qui pesa evidentemente il nodo delle risorse, anche perché non si può certo finanziare la riforma fiscale con i fondi europei. Ma ce la faremo? Cioè, si riuscirà, non so, a fare tagli delle agevolazioni fiscali, delle spese? Oppure sarà l'ennesima promessa mancata? Io allora ho paura appunto che questo sia un capitolo che va tenuto distinto da questa questione del recovery fund. Perché innanzitutto, come diceva lei, i soldi non possono essere spesi per abbassare le tasse, soprattutto per un paese come il nostro che si troverà tra poco ad avere un debito pubblico del 160% del PIL, salito dal 130% in un anno soltanto, in un anno e mezzo. Quindi noi prima o poi dovremo cercare di riparare un po' la finanza pubblica e non ci possiamo permettere di una caduta del gettito. Quello che si può fare naturalmente è rendere più efficiente il sistema fiscale, e questa di nuovo è una di quelle cose note agli specialisti e che l'Europa di nuovo ci dice sempre di modificare. Cioè, in Italia c'è un carico squilibrato del fisco a danno del lavoro, della produzione, delle imprese, che va riequilibrato. Quindi bisogna cercare di aumentare la base imponibile, cercare di fare in modo che tutti paghino le tasse su diversi cespiti, in modo tale che il fisco sia meno penalizzante per i settori che servono appunto ad aumentare il prodotto e la produttività. Sì, certo, quindi priorità molto importanti per il governo, saremo a vedere da qua alla fine dell'anno. Intanto noi la ringraziamo molto, professor Reichlin, per essere stato con noi. Io ringrazio anche Alessandro Chiappini in regia, Luca Cremonese in redazione. Cari ascoltatori, a risentirci alla settimana prossima. Arrivederci professore, grazie ancora. Grazie, arrivederci a voi. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it.